Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. English Bit di Giulia Crivelli. To be sold on. Californians aren't sold on treating Uber and Lyft drivers as independent contractors, poll shows. Il quotidiano Los Angeles Times ha scelto questo titolo per raccontare di un sondaggio sui servizi alternativi al taxi che si sono diffusi proprio a partire dagli Stati Uniti. I californiani non sono affatto convinti che gli autisti di Uber e Lyft debbano essere considerati alla stregua di lavoratori autonomi, dice un sondaggio. La prima espressione che ci interessa è il phrasal verb to be sold on, composto dall'ausiliare essere e da to sell, verbo irregolare. To sell, sold, sold, significa essere fortemente convinti, e da qui il suo contrario, usato dal giornale californiano per il suo titolo. Altre espressioni idiomatiche sono to sell somebody down the river, che significa non rispettare un impegno preso. L'origine del modo di dire risale all'epoca dello schiavismo, quando i luoghi più sfavorevoli erano quelli nella parte bassa del fiume Mississippi. To sell yourself short significa sottovalutarsi. To sell the soul to the devil, come in italiano, vuol dire vendere l'anima al diavolo. Tra i veri e propri phrasal verbs ci sono to sell on, rivendere, e to sell out, finire tutto, da cui l'espressione sold out, tutto esaurito. The tickets sold out in a couple of hours. I biglietti finirono in un paio d'ore. This week's performances are completely sold out. Gli spettacoli previsti per questa settimana sono tutti esauriti. I'm sorry, we've sold out of white bread, ci si può sentir dire in una panetteria. Scusate, abbiamo finito il pane bianco. Tornando al verbo in sé, viene usato in modo analogo al nostro vendere. We offered them a good price, but they would not sell their house. Gli offrimmo un buon prezzo, ma non vollero vendere la loro casa. In senso figurato si può dire you really have to sell yourself at a job interview. Devi saperti davvero vendere a un colloquio di lavoro. Now we have to try and sell the idea to the management. Ora dobbiamo cercare di vendere l'idea al management. Tornando al titolo del Los Angeles Times, notiamo il verbo to treat, regolare, treat, treated, treated, che significa trattare, e come per sell ha molti paralleli con i significati italiani. Treat your keyboard with care and it will last for many years. Tratta bene la tua tastiera, con cura, e durerà molti anni. He was treated as a hero on his release from prison. Quando uscì di prigione fu trattato come un eroe. Poi c'è il senso medico e quello chimico. The condition is usually treated with drugs and a strict diet. La malattia viene in genere trattata, curata, con farmaci e una dieta molto rigida. She was treated for sunstroke. Fu ricoverata e curata per un colpo di sole. Crops are treated with insecticide. Nei campi viene utilizzato l'insetticida. To treat like dirt significa trattare qualcuno molto male. Dirt significa sporcizia. Il phrasal verb to treat, to, viene usato quando accade qualcosa di piacevole. The crowd was treated to a superb display of tennis. Gli spettatori ebbero il piacere di assistere a un magnifico spettacolo di tennis. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.